Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci, caro Oscar. Eccoci, questa edizione di settimana, in questo 16 maggio 2016. Oggi è un santo molto venerato a Gubbio, perché il patrono è Sant'Ubaldo. Non c'entra niente con quella nota testata del film Ubalda. No, assolutamente niente. Un altro santo di una famiglia ricca e potente, perché Ubaldo di Baldassini era una famiglia che, insomma, nel Medioevo a Gubbio comandava. Poi lui è diventato vescovo, santo, eccetera. Ma ci sono anche tanti bei santi cui nomi sono diffusissimi, ovviamente. Chi non ha amici come Abda, per esempio? Abda, certo. Oppure Fidolo, che non è uno dei sette nani, però oggi è San Fidolo. Oppure Carantoco, San Carantoco, poi è San Germerio, è San Gennadio, Alipio, Possidio, ecco, e ce ne sono tanti altri. A me è invece sempre piaciuto Brendano il Navigatore, però questo fa parte dei miti nordici europei. Brendano il Navigatore è una bella figura, perché tutte le volte che si arrabbiava prendeva il mare e non tornava finché non gli passava una vita in mare. Una vita in mare. Posso capire, insomma, così. Oggi ti ricordo che nel 2004 il Milan vinceva lo scudetto, nel 2004. Stai scherzando? No, è così, nel 2004. Non ricordo. Infatti, te lo volevo ricordare. Non ricordo. È l'ultimo scudetto? No, questo fai tu, però nel 2004. È proprio l'ultimo, però, più o meno. Allora, 800240024, io ho una curiosità, caro Oscar. Io vorrei sapere, Lololo, la Lulu, Ragù, Artù, come hanno reagito? Come immagino. Hanno reagito? Sono i tuoi cinque cani? Come hanno gatti, reagito? Gatti, gatti, perché ho detto cani, catti, gatti? No, cane gatti. Il padrone. No, sono io. No, cane, no, no. Il cane di casa sono io. Chissà perché ho detto cani. Forse vorrei che al tu vertice avessi cinque c'è cani un invece. Tyrannosaurus Rex. No, come anche nel tuo caso. Il gattaro Cardinal Giannino. Chissà cosa hai pensato tu e cosa hanno pensato loro quando hai sentito il Papa. Vediamo gente tanto attaccata ai gatti, ai cani, e poi lasciano senza aiutare la fame del vicino, la vicina. Questo non si fa. Sono girati verso di me e hanno detto pappa. Pappa. Hanno tradotto in questo modo. No, io ho detto veramente parole sante, secondo me, attirando ovviamente strali di coloro che dicono: ah, ce l'hai con i gatti, con i cani. Non ce l'ho assolutamente con le bestie, con i gatti. C'è anche tu, gatto, qui. C'ho un gatto. È la dimostrazione migliore che non è che... Ma poi, no, ce l'ho, però questo devo dirlo, magari sbaglio, un pochino ce l'ho con chi mette il cappottino di cashmere al cagnetto e poi passa davanti al barbone e dice: guarda che città schifosa che è diventata questa, no? Dove si va a finire con questa gentaglia? Su questo, ecco, sono d'accordo con te. Secondo me il Papa questo intendeva, no? Anzi, tanto per dirne uno, ieri pomeriggio naturalmente dovevo fatto giro perché c'erano le magliette per il bimbo che ha un anno e cinque mesi di famiglia, e poi bisogna iniziare a preparare i primi acquisti per la sorellina che arriva tra poche settimane. Certo. A un certo punto becco, era via Dante, quindi a Milano, quella che è tutta pedonale, una giovanissima che suonava il flauto per chiedendo l'elemosina. Suonava il flauto in maniera, secondo me, pazzesca. Era pazzesco, ho detto un po', e francamente ho detto: ma qui non state da qualche centesimo, questa ha studiato anni per suonare così. E io ho dato parecchi euro. Allora, per dire, allora posso dirti, lì mi è venuto in mente il Papa, davvero, vedi. In quel caso mi ha indotto ad aumentare quello che davo, perché ma secondo è così. Me questo intende, cioè, quelli che dicono: ma secondo te, che ne so, Totorina è meglio di un animale, piuttosto che ci sono animali, ci sono uomini che sono molto peggio degli animali, o molti che dicono: guarda, ti presento il mio vicino, ti assicuro che è molto peggio, ma non c'è dubbio, ma voglio dire, ma perché l'uomo è questo, è un animale. Ed è in grado anche di malvagità, è in grado di cattiveria. Ricordi Bracardi, quando uno dei personaggi più famosi ai tempi di Alto Gradimento, tantissimi anni fa, però una trasmissione che ha rotto tutti i canoni, quando diceva: l'uomo è una bestia, esatto. Perché anche lui fa tra tra tra, questa era una delle cose. Esatto. Però questo non, ciò non toglie che forse la solidarietà tra di noi prima che sarebbe giusta. Quindi amate le vostre bestioline come più di prima, amate, io amerò il mio gatto e Oscar i suoi 5 gatti, certo, ma questo intendeva il Papa, insomma, ma sì, adesso, no, senza, credo che avesse nessun intento di contrapposizione, diciamo la sì, verità. Però guarda che figurati, c'è stato ah, ma no, ma certo, perché uno poi, poi è anche vero che la comunicazione cerca la contrapposizione laddove anche non c'è, questo poi è ovvio e fa parte del grande spettacolo non sempre commendevole che diamo, cioè per esempio io sono un estimatore e io critico che la Rai chiuda la trasmissione di Nicola Porro Virus su Rai 2, certo che se poi mi chiami Red Ronnie contro i vaccini io tifo tutta la vita per il virologo Roberto Burioni che fa 5 milioni di contatti col suo video che dice ma siete impazziti, sì, c'è quest'altra polemica perché a Virus è andato Red Ronnie che si erano Brigliadori. ha iniziato a c'era anche la Brigliadori, anche la Brigliadori. Oh mamma mia ragazzi, io siccome ti difendo a spada tratta, le però, medicine sono delle industrie che vogliono fare soldi, non credete voi, non credete a queste cose, vabbè, c'è diritto di parola per tutti, questa è la verità. Sì, naturalmente ci sono dei temi sui quali poi l'informazione scientifica dovrebbe prevalere, se no è finita, che facciamo? Sì, Red Ronnie ha parlato dei vaccini, mettendo insieme una serie di luoghi comuni, i vaccini fanno questo, i vaccini fanno altro, e effettivamente questo virologo che ha parlato poco... Roberto Burioni, no, ma ieri... Però il giorno dopo ha fatto su un post su Facebook... Social, 5 milioni di cose, e devo dire la verità... Ecco, forse l'effetto indotto, quello di portare 5 milioni di persone a sentire un virologo, ecco, non era intenzionale, ma almeno è positivo, devo dire la verità. Però Oscar, vabbè, adesso parliamo anche un po' di politica, parliamo di tante cose. Vedi che ci sono gli ascoltatori anche su questo. Antonio, ci vuole parlare, credo, del Papa, dalla provincia di Salerno. Antonio. Ciao, salve. Ha un cane, ha un gatto? Ho un cane, anche se ho a che fare con tanti animali in quanto un negozio di animali. Ah, che bello. Ah, vabbè, quindi okay. gli ha toccato il business il Papa. No, mi ha toccato il cuore. Ci vuole dire, Antonio? E niente, in merito alle parole del Papa, appunto, perché magari si pensa più al cane e al gatto e non al vicino. Però sinceramente se i vicini, tra virgolette, sono come i miei vicini, sempre tra virgolette, e viva tutti gli animali, voglio dire. Eccolo lì, questa è la gran classe, Antonio, è un gran classico, è proprio là. Stamattina non so come si mette, qualcuno l'ascolta quando esce di casa o forse è già in negozio, ma quando torna vediamo che cosa succede. Vabbè, ma non l'abbiamo identificato benissimo, Antonio, ecco, dalla provincia di Salerno. È meglio, diciamo, che non faccia sentire troppo la voce, se la individuano i vicini non saranno molto contenti. Va bene, ancora grazie Antonio, ancora ci chiedono come si chiamano i gatti di Oscar, ma insomma Lolo, Lola, Lulu, Ragù e Artù. È semplice, io sono 6 mesi che sto cercando di imparare. Dai, è semplicissimo in realtà, come si vede. Sono 5, Lolo, Lola, Lulù, Ragù e Artù. Effettivamente è molto semplice. Vorrei anche per tutte le signore in ascolto sottolineare che non sono stati imposti in famiglia, nel senso che il gattaro ero io prima, ma quando poi siamo messi con mia moglie, poi ci siamo sposati e così via, di volta in volta è stata lei a salvarne di volta in volta uno in più. Quindi ci terrei, perché non vorrei sembrare che come sto imposto. Figurarsi, anzi, quando sono nati i bambini piccoli, la moglie ha iniziato a cambiare idea e io devo tentare di difendere l'equilibrio sostenibile per tutti i viventi in casa. Figurarsi se Oscar Giannino può mai essere il primo uomo sulla terra a riuscire a imporre qualcosa in casa. No, non è riuscito neanche lui, come te, esattamente come te, semplicemente ha una moglie consenziente sui 5 gatti. E allora caro Oscar, vabbè, c'è anche un po' da parlare di politica. So che ti ha colpito a Roma, dove questa volta noi diciamo sempre tronca, ma questa volta tronca. Si avvicina forse al voto delle elezioni e anche lui viene contagiato da cose che sono un po' inesplicabili. Per esempio, cosa è successo? Ma dai, questa assunzione, Roma c'ha già 23.000 dipendenti solo del comune, arriva a 68.000 con le municipalizzate. Un mucchio di guai, finti salari di merito. E cosa fa? Ti metti ad assumere quelli che si devono occupare adesso del benessere psicologico antistress dei dipendenti del comune. È una cosa importante. Marino, pensa benessere situazione psicofisico. Aveva già fatto i corsi antistress, aveva fatto le tecniche di meditazione. Marino, questo tronca non c'entra niente. E adesso cosa facciamo? Assumiamo lo sportello amico per il benessere psicologico. Una cosa mi ha colpito: assunzioni a Roma, al comune, per rimotivare i dipendenti comunali. I corsi di rimotivazione, neanche di motivazione, no, di rimotivazione. In particolare coloro che, avendo a che fare con gli sportelli, con i cittadini, è chiaro che toccano con mano, per così dire, nelle orecchie, ecco, cosa pensano i cittadini di Roma. Però io a quel punto sto con i cittadini, che dobbiamo rigenerare, rimotivare. Ma dai, tronca, per favore. Qua c'è una battutaccia, non so se te la posso leggere, caro Oscar. Ecco, quello che si chiama Ragù è un gatto vicentino. No, non è vero. Però Vicentino, è rosso, e qui mette insieme tutti i luoghi comuni, esatto, del mondo. E quindi, Vicentini Magnagati, è una battuta. È stata battuta dal fatto che i vicentini sono mangiati dalle banche, altro che, non si mangiano i gatti. Una bella popolare di Vicenza ha cambiato il proverbio, cari amici. Esatto. Vabbè, però Oscar, se vuoi c'è da parlare un pochino di politica, dai, c'è anche la politica. Allora, il Movimento 5 Stelle litigano perché dicono che Pizzarotti ha nascosto per 3 mesi un avviso di garanzia. Il problema non è tanto l'avviso di garanzia, ma l'averlo nascosto a quelli del movimento. Lui dice: io chiamavo e non mi rispondevano, cioè siamo a questi livelli, insomma, in discussione. C'è Salvini che dice: voterei la Raggi se non va la Meloni al ballottaggio, cioè voterei il Movimento 5 Stelle. Io posso dire una cosa? La prima è semplicemente che i 5 Stelle, la mia opinione, non conta niente. Cioè, quando si darà un organo nazionale per discutere le maggiori scelte politiche, anche quelle delle grandi città e degli amministratori, secondo me sarà sempre troppo tardi. Nel frattempo, ma c'è questo regalano, però quello non è un organo, quello è una scelta dall'alto. Voglio dire, così regalano solo argomenti ai loro avversari. Questo è quello che io mi limito a dire. Sta capitando, no? È ovvio che questa vicenda in questi giorni vengono usati da tutti gli avversari, nonché dalla stampa, come una grande incudine su cui boom, boom, boom, col martello. E io non capisco perché loro dicono: se ci diamo un organo è un'omologazione a un partito. Ma poi un organo di fatto c'è, perché la Casaleggio, associati anche oggi Bugani, che è uno dei massimi, dico un organo rappresentativo, no, è chiaro, però alla fine qualcuno che prende le decisioni c'è. In questo caso le ha prese Casaleggio Junior, questo si è capito, e insomma la Casaleggio associati, lui e Grillo, ecco, sì, hanno preso... esattamente, secondo me il meccanismo che, come vedi, porta a scelte discrezionali, perché il criterio non è quello di che si usa lo stesso per tutti, come si vede, per tutti i sindaci e amministratori, certo. E questo secondo me è un autogol. Però c'è per esempio un sindaco, allora, Nogarin di Livorno, e dice al Corriere della Sera: la differenza tra il mio avviso di garanzia e quello di Pizzarotti è che io l'ho detto subito e lui invece. Però c'è un altro sindaco di Pomezia che ha detto: io sono stato denunciato per diffamazione, non ho detto nulla, hanno archiviato, ma per 3 mesi non ho detto che mi era arrivato un avviso di garanzia. Allora, che fare? Naturalmente, cioè, è anche vero che gli avvisi di garanzia, cioè fattispecie di reato, non sono uguali per tutti. Questo di Pomezia era uno che lo diffamava per i loculi al cimitero, ma e così vero, via, rispetto a cosa succede a Livorno, cioè una grande società. Però allora rifiuti. Vedi che non ci può essere la regola generale, no, l'indagato ci vuole, appunto, deve essere... ci vuole un criterio trasparente di dibattito politico, ma trasparente. Questa è la mia opinione, però... Comunque Pizzarotti la pensa così, senti qua Pizzarotti. Quello che mi ha sempre detto è: noi dobbiamo essere meglio degli altri, ma non si può farlo a parole. Non è uno slogan dire: ma noi siamo un movimento e gli altri sono il PD. È uno slogan, perché, caro Di Maio, forse dovresti guardare che regole scritte non ce ne sono e ve le state inventando alla giornata. Questo è il clima. Questo, no? È il Pizza, che da sempre bisogna dargli atto. Io tra l'altro credo che il Pizza in generale male non abbia fatto. Amici a Parma mi dicono: certo, rispetto alle palatenze della campagna elettorale è un conto. Però di fatto le scelte sono incomparabilmente più responsabili di chi l'ha preceduto e ha portato Parma al disastro, ricordiamoci. Sì, però qua siamo su un altro dibattito, ormai è diventato un dibattito, da tanto che Repubblica dice che in caso di espulsione Pizzarotti sarebbe pronto a fare causa per tenersi il marchio, diciamo, cioè il Movimento 5 Stelle. Capisci che siamo proprio alla frattura politica. Sì, per una volta. Di solito noi commentiamo sempre di fronte alle follie dei partiti, i 5 Stelle ringraziano. In questo caso sta capitando il contrario. Sta capitando il contrario. Ci chiama Barbara da Bergamo, ma credo ancora per parlare delle parole del Papa. Barbara, nota Gattara. Pronto? È Gattara. Pronto? Lei? Barbara. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Senta, io intervengo per dire che sono molto d'accordo con quello che dice il nostro Papa. Ma lei ha dei gatti, dei cani? No. No, no. È d'accordo no, con però... quello che dice il Papa. Ma a proposito sì, di animali, per... ciao marito. Ciao marito. Sì. No, che... però dice sì, cioè, incredibile. Lo sapevo c'era... che cadeva in no, questo trucco. Barbara proprio è caduta subito proprio così. Vabbè. Sì, sì, l'ho capita dopo. L'ha capita dopo. Vabbè, Barbara, perché ha ragione il Papa secondo lei? Ma ha ragione, sono d'accordo. Se ha ragione o no non lo so, però sono molto d'accordo perché siamo arrivati alla frutta, cioè un mondo nel quale si dà più importanza alle cose che alle persone. Dice del fatto che... Non sono cose però gli animali, eh? Sì, sì, sì, è vero, non sono cose, però nella scala dei valori, a mio parere, non avere a che fare con un vicino di casa, non sapere della solitudine che può avere, che ne so, una mamma appena partorito, piuttosto che una persona anziana che ha bisogno di aiuto, piuttosto che... Tanti, non vorrei dire banalità, però guardi che di solitudine ce n'è in giro veramente tanta, ma cioè, tanta. Va bene. E quindi questo Papa con i cani, con i gatti, con gli omosessuali, con i divorziati, cioè sta aprendo delle questioni, a mio giudizio, che fanno vedere quanto ci stiamo un po' così, diciamo, imbestialendo giustamente visto che guardi, si parla di, questa, si questa è una cosa che mi fa male al cuore perché tra loro gli cani, i gatti, gli animali sono più solidali in maniera istintiva talvolta di quanto non capiti tra noi. Io posso dire una cosa, proprio la risposta alla solitudine, se Barbara accetta questo proseguo di riflessione, e guardi, molta gente la trova esattamente più nei cani e nei gatti che negli esseri umani, quindi in questo caso i cani, i gatti e tanti altri animali, i cavalli sono stupendi in questo perché ti riconoscono da lontano, nutriscono, cioè sono meglio degli umani, e quindi anche da questo punto di vista secondo me il Papa non voleva graduare, voleva semplicemente dire occupatevi con la stessa intenzione umana che riservate agli animali, chiamate anche certo. Agli altri esseri umani, però i cani, i gatti, gli animali sono capaci di amarci più di quanto gli esseri umani. Infatti, secondo me, come dici tu, non voleva mettere in contrapposizione, non voleva dire amate gli umani sì, e trascurate, cioè, trascurate quel che non va bene, no? E fingere di essere empatici con gli animali quando per il resto, se qualcuno sta morendo per le scale, vi girate dall'altra parte. Ecco, questo è il significato. È chi mette in contrapposizione, si può benissimo amare, e infatti ho sempre fatto la premessa, continuate ad amare le vostre bestioline, i vostri animali eccetera, ma voglio dire non è un richiamo a chi ama il cane, come questo che mi scrive, dice a parte sei un deficiente, mi scrive Milan eccetera, perché non mandi i tuoi vicini dal Papa, sono di quelli che ama di più il mio cane che i miei vicini, e se dovessi salvare un umano o un cane salverei sicuramente il cane. Bravo, complimenti, buona vita. Quelli che mettono in contrapposizione, no? Ma si una contrapposizione. C'è tanta gente, ma nei condomini non devo insegnarti io che cosa succede. Ma certo, ma l'essere umano è più intelligente, e purtroppo, mentre l'animale è istintivo, l'intelligenza purtroppo porta anche a usarla in maniera negativa. Nel mio condominio, dopo un lungo dibattito, sono arrivati in casa in altre tre volte nel palazzo. Tenete conto la strada dove c'è la questura a Milano, tanto per dare l'idea, la sicurezza in pieno giorno, allora lungo. Libera, prendiamo le telecamere eccetera eccetera, il risultato è quelli che non sono stati visitati dai ladri, no, uno disperato, un inquilino disperato per gesto di protesta ha messo delle piante proprie all'ingresso, dicendo sì. Così imparate, a spese mie, però appena riaffitto la casa perché me ne vado le levo. Per dare l'idea le levo. Visto che hai parlato di casa, anche noi parliamo di casa. Io volevo arrivare lì, tra poco, dopo la pubblicità, perché a me ha colpito, non so se hai colpito anche te Oscar, che venerdì scorso, un po' nel silenzio, c'è stato degli scontri proprio a Roma tra i manifestanti per i diritti alla casa. Anche di una certa così, scontri di una certa, non dico violenza, però in Campidoglio. Esatto, e la polizia. E ne vogliamo parlare con due persone certamente portatori di valori ben contrapposti. Perché da una parte c'è il diritto a... l'equa dignità di una casa per tutti, dall'altra il diritto di proprietà che dice sì, però non potete occupare. Avremo il segretario generale di Confedilizia e Andrea Alzetta, uno dei leader dei movimenti per la lotta alla casa a Roma, conosciuto come Tarzan, a Roma. Tra poco. Miau. State ascoltando un programma offerto da SailPost, la nuova posta italiana. Scopri di più su sailpost.it. Siamo qua alle 8:41 minuti, cari eccoci, ascoltatori. C'è chi ci scrive in maniera maligna che forse il Papa prima è andato a far visita a Bertone dopo aver detto, poi ha detto questa cosa su... Cioè ha dimostrato che anche coloro che sbagliano molto ti fanno venire i dubbi che gli animali siano meglio, sono in realtà degni di gesti di solidarietà. Vabbè. Scherzando, però. Insomma. Allora, parliamo di un tema molto, molto, si può dire, caldo e molto sentito. A Roma, venerdì, per esempio, ci sono stati scontri. Scontri tra i movimenti che rivendicano il diritto alla casa e le forze dell'ordine, a occuparla anche una casa. In momenti estremi e la polizia. E la polizia. E ci ha molto colpito, e ne vogliamo parlare perché a me ha colpito, cioè, capire che cosa porta, diciamo, a manifestare, appunto, a rivendicare il diritto, non solo il diritto a una casa, ma anche arrivare a occuparla. E perché? Cioè, e quindi, insomma, abbiamo il rispetto della proprietà privata in Italia, in teoria sì. Diciamo che per moltissime grandi città italiane questo è da anni e anni un problema aperto, perché naturalmente chi deve poi garantire la sicurezza e l'ordine pubblico e si trova con migliaia e migliaia di unità abitative occupate o in via di futura occupazione, a quel punto c'ha sulla bilancia due problemi seri. Perché da una parte i proprietari che dicono: ma scusate, com'è possibile? E dall'altra la gente qui dice: sì, ma noi aspettiamo a migliaia e migliaia d'anni nelle graduatorie, le case popolari non ce le date, case e magari ci sono le case anche, eccetera, a quindi disposizione, ma non vengono date. Queste sono le questioni. Le ragioni ci sono, se volete, anche da entrambe le parti che rappresentiamo così. Intanto salutiamo Andrea Alzetta, conosciuto a Roma come Tarzan. Buongiorno Alzetta. Buongiorno. È uno dei leader, diciamo, di quei movimenti action per la casa, possiamo dire così. Ma era in piazza a Roma tra i manifestanti venerdì? Certamente, stavo dietro a quel gommone che sinceramente si parla di scontri, ma se guardate bene le immagini, l'unica appunto cosa che va a un certo punto contro la polizia è un gommone. E per il resto parte una carica, dopo che appunto i movimenti con 5.000 persone che occupavano Piazza del Campidoglio, con i presidenti dei municipi che volevano partecipare a questo incontro, perché finalmente arrivava la possibilità di una legge regionale che metteva 198 milioni per restituire i diritti invece che appunto sgombri, e qui il commissario Tronca ha ben pensato invece di bloccare tutto con una delibera che va esattamente nella direzione contraria di quella. Adesso ci spiegherà il motivo per cui era lì in piazza. Insieme a lei salutiamo Giorgio Spaziani Testa, che è segretario generale di Confedilizia. Buongiorno Spaziani Testa e grazie per essere qui. Presidente, ma va bene lo stesso. Presidente, sì. Allora, Andrea Alzetta, perché lì a protestare in piazza? Perché intanto sono dagli anni Ottanta che non si costruiscono case popolari, siamo il paese che in Europa ha la percentuale di edilizia pubblica minore d'Europa proprio, cioè abbiamo il 3% a fronte di una quadro in Europa che va dal 20 al 30% di edilizia pubblica, perché c'è stata proprio un'ideologia in Italia che è quella appunto che tutti devono diventare proprietari privati e non c'è stato un intervento pubblico decente. Questo è il quadro di contesto. In realtà noi abbiamo strappato con 2 anni di mobilitazioni, di lotte, di picchetti antistrada, di manifestazioni, di occupazioni, una legge che riguardava gli occupanti, gli ospiti dei residence e quelli che hanno fatto la domanda per il bando 2012, cioè gli sfrattati. Cioè abbiamo fatto una legge per tutti, con la possibilità anche di risolvere, tra virgolette, per quanto riguarda le occupazioni, appunto la situazione, cioè riusciamo a dare casa, a liberare gli edifici, a restituirli ai legittimi proprietari, a liberare anche il tavolo dell'ordine e della sicurezza dai problemi. Ma una casa occupata non andrebbe sgombrata, appunto? Guarda, il problema vero è che in questa città, appunto, nessuno fa politiche di sostegno all'abitare, perché quelle che ci sono finiscono puntualmente mangiate dai costruttori, cioè ci sono 2 miliardi che sono finiti per edilizia agevolata costruendo case su aree pubbliche con contributi fino al 90% che devono restituire appunto affitti calmierati. I 142 piani di zona tutti hanno applicato i prezzi di mercato invece di applicare affitti calmerali. Quindi non c'è una politica sulla casa, ci sono 170.000 case sfitte e 52.000 case costruite all'ultimo piano regolatore intendute sul mercato. Quindi occupare, traduco occupare, in alcune case è legittimo. Se nessuno si preoccupa di dare una risposta in termini di salari, in termini di reddito alle persone, è chiaro che se uno ha uno stipendio che è minore di quello che sono i prezzi degli affitti, è chiaro che non c'è una soluzione. O ci sono delle politiche, o le persone, da questo punto di vista, si danno da fare, auto-organizzarsi da solo. Questo è il concetto. Se non da fare, però è un paese nel quale, ripeto, a quel punto come si risolve la questione? Cioè, io ritengo inaccettabile l'idea, è o lo Stato mi paga oppure mi dà tutto, oppure o fa io politiche abitative, perché così creo il problema, perché queste sono cose organizzate, ovviamente io creo il problema dell'ordine pubblico permanente. Dopodiché, siccome io non sono indifferente a chi ha pochi soldi e non ha un tetto, quello che non si può fare però è andare avanti per anni e anni e anni, così come la politica ha fatto, perché secondo me è pure peggio di quello che ha detto la politica, se lì è riccamente fumati i soldi che per decenni ha raccolto dell'edilizia popolare, cioè non è che li ha regalati ai costruttori, li ha utilizzati per altro, cioè, capisci? Allora, questa cosa qua è verissima. Dopodiché in molte città italiane questo è diventato un problema di ordine pubblico, e non è un problema di ordine pubblico, è un problema di diritti, perché il diritto alla proprietà non è che può sparire, è certo. E però anche vero che la politica non può far finta di dire, come ha fatto per anni, ha detto vabbè, io faccio finta di non vedere che occupate, perché e così non do neanche le risposte però organiche, certo, sistemiche all'housing sociale. Ma vediamo, spaziali testa, lei vede il diritto alla proprietà, come dire, a rischio a questo punto, di fronte a queste, magari anche se vuole, alcune proteste hanno un fondamento di legittimità da parte di chi protesta, da parte in base a quello che ci ha detto Alzetta, però il diritto di proprietà così rischia di scomparire, secondo lei, in Italia? Ma il diritto di proprietà è fortemente a rischio. Le occupazioni, perché di questo insomma si è parlato all'inizio dell'introduzione, le occupazioni di immobili e abitazioni private e pubbliche, ricordiamolo perché avviene questo, sono effettivamente troppo tollerate in questo paese, ma non solo dalla politica, purtroppo anche da un certo sistema di giustizia che consente a volte di fatemela passare così, tutelare di più l'occupante che l'occupato, chiamiamo così il soggetto che subisce. Quindi un problema di legalità c'è, e c'è anche nei messaggi con i quali non si dà il giusto peso ad atti che sono fortemente lesivi di diritti fondamentali. Dopodiché, quando si affronta il tema, però non lo si può guardare solo da una parte. Le politiche abitative di un paese dovrebbero essere a tutto tondo, dovrebbe per esempio verificarsi anche da parte di chi fa queste proteste come viene gestito il patrimonio di edilizia economica e popolare. Quindi, a parte l'illegalità che va stroncata nella maniera più dura, va stroncata anche la gestione malsana, cioè l'occupazione, la morosità diffusa anche da parte di chi potrebbe permettersi ben altro in questi alloggi, e l'occupazione senza titolo, non violenta, ma perché non controllate, quindi da parte di soggetti che hanno redditi e patrimoni. Questa è una cosa da non tollerare, ma è diffusissima. Lei dice ci sono molte persone che si mettono in una casa, non pagano gli affitti. E nessuno controlla. I casi delle case comunali di Roma sono andati sui giornali perché sono eclatanti, super eclatanti, scandalosi. Le ha fatte riesplodere. Ma c'è molto di più nell'edilizia economica e popolare di tutta l'Italia, ma ci sono i dati dell'organizzazione che segue tutto ciò. In più c'è da considerare che non è una questione solo di edilizia economica e popolare. Qualche anno fa il segretario dei radicali italiani Maggi, quando si parlava di mafia capitale e di tutto ciò che abbiamo visto, addirittura fece una provocazione e disse: l'emergenza abitativa a Roma non esiste. Non so se avesse ragione, ma sono molto propenso a pensarlo, perché se si gestisse questo tema con oculatezza, con un equilibrio fra edilizia pubblica comunale e statale, locazione privata e quindi il tema della tassazione sul quale, se volete, entriamo, e gestione corretta di tutto il patrimonio anche comunale, stiate certi che le soluzioni, l'emergenza non ci sarebbe, tante persone. Perché dice sulla tassazione? Qual è il problema che vuole mettere? Il tema della tassazione è enorme. Allora, in Italia l'affitto l'ha garantito, e lo garantisce ancora, ma ancora per poco se non cambieranno le cose, in gran parte la proprietà diffusa, la proprietà da parte di l'allocazione, l'affitto da parte di piccoli proprietari che hanno investito negli anni anche piccole somme per avere una piccola pensione integrativa, chiamiamola così. Quando la tassazione su questi beni viene portata ai livelli in cui è stata portata attraverso ad esempio la triplicazione avvenuta con la manovra Monti, è chiaro che non c'è più convenienza da parte dei proprietari. Sì. È avvenuto questa triplicazione addirittura su quei contratti che questi movimenti dovrebbero considerare molto di più, cioè quella fetta che c'è fra l'edilizia economica e popolare e il libero mercato, i cosiddetti contratti agevolati o concordati, che prevedono un patto fra Stato e cittadini. Lo Stato dà agevolazioni fiscali ai proprietari, il proprietario abbassa il canone a livelli al di sotto di quelli di mercato. Se si viola quel patto e si triplica la tassazione anche lì in corso di contratto, è chiaro, si mina la fiducia dei proprietari e quindi di chi può garantire questo affitto, e il sistema non regge più, perché non si può avere un affitto dato solo dall'edilizia pubblica. L'affitto nei paesi evoluti, vediamo la Germania bistrattata, ma su questo è molto efficiente, è molto diffuso l'affitto privato, ma perché non è massacrato dalle tasse come in Italia. Alzetta, ma lei quante case ha occupato a Roma nella sua carriera? Non c'è più. Alzetta. Guarda, il tema non è proprio come dice il rappresentante di Confedilizia, perché qui il Comune di Roma ha fatto un bando anche rivolto alle proprietà private, anzi scusi, la Regione, ha fatto un bando rivolto alle realtà private per affittare appunto appartamenti per risolvere l'emergenza abitativa. I proprietari hanno fatto cartelle e non vi hanno partecipato, perché il prezzo di 1.600 è ritenuto al metro quadro, è ritenuto un prezzo troppo basso. Sì. Peccato che ci sono 52.000 case che vengono tenute sfitte e il governo gli ha tolto anche l'obbligo di pagare l'IMU. Però qua siamo in chiusura. Non parliamo dei proprietari in questo caso, che l'IMU la pagano si dice che qui la proprietà privata non è tutelata. Qui non sono tutelati i poveri, c'è una guerra contro i poveri vera e propria. Cioè, si sono magnati tutti i sordi con mafia capitale e poi danno la colpa ai poveri. Qui stiamo capovolgendo la realtà. C'è una gestione della città che è stata usata come un bancomat. Cioè, questa città è cresciuta sulla speculazione, sulla rendita fondiaria, e noi occupiamo non case popolari, ma occupiamo palazzi lasciati colpevolmente. Dobbiamo chiudere, per così dire. Sì, e come si vede, gli interessi sono contrapposti e basta. Invece io sarei per contemperarli, altrimenti se uno dice la colpa è tua, mi prendo il tuo, no, la legge non può accettare. No, infatti è questo il timore che di fronte poi a questo dico, siccome penso che il mio diritto sia leso, allora mi prende una cosa funziona che penso così. Bisogna contemperare. Comunque il tema è caldo anche in vista delle amministrative, vuole dire che ci torneremo. Intanto ci dobbiamo fermare qui. E soprattutto miau! Miau!